בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. Live. Amici di Bulo Radio Veneto, buonasera a tutti, benvenuti alle nostre frequenze. Questa è l'inizio, la sigla che ormai conoscete tutti di Blue Time Live, ovvero la musica dal vivo che arriva a casa vostra tramite la nostra frequenza radio. Buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato e da chi conduce assieme a me la trasmissione, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, in questa serata un'altra grande artista è venuta a trovarci per proporci quel che è il suo album d'esordio. Lei si chiama Valeria Caputo. Buonasera Valeria. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, nella biografia di Valeria Caputo c'è scritto pugliese di nascita ma romagnola di adozione. Allora subito la domanda che nasce al principio: Valeria, ti senti più romagnola, più pugliese? Ma già messa in crisi all'inizio. No, mi Bene. Sento pugliese, però nello stesso tempo cittadina del mondo, nel senso che ho una certa apertura nei confronti delle varie culture che adesso si stanno interacciando più che mai. Certo. E poi devo dire anche una piccola parentesi, che la mia nonna Rita era romagnola di Rimini, quindi un pochino di sangue romagnolo, c'è. Nelle vene. E questo era soprattutto l'inizio per capire già nel principio, forse ce ne siamo fatti un'idea noi, di quello che è il titolo del disco che ci vai a presentare in questa serata. Ricordiamo, fino alle 22:30 avremo modo di estrapolare più brani da questo disco, ma anche ascoltare quelle che sono le versioni che tu farai solo con la chitarra acustica. In questo caso stiamo parlando di uccelli migratori, o come li hai chiamati tu in inglese? Migratory birds. Benissimo, anche perché ricordiamo che Valeria Caputo, italianissima, ama comunque cantare in lingua inglese. E quindi abbiamo capito che questi uccelli migratori un po' fanno parte della tua indole, nel senso che tu pugliese sei andata in Romagna e quindi hai già, come dire, fatto il tuo viaggio, che comunque prevede sempre dei ritorni, perché la terra di Puglia non si dimentica mai. Esatto. E quindi già in questo parliamo di migrazione. Ma allora, per capire qualcosa di più di quello che è la musica di Valeria Caputo con i Migratory Birds, direi che potremmo ascoltare subito un primo pezzo per poi tornare a commentarlo insieme. Allora, vuoi dire il titolo di quello che andremo ad ascoltare, Valeria? Sì. Il titolo è The Next Train. Ok, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarlo insieme qui dai microfoni di Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Times 1,000 thoughts stopping every station, waiting the next train, with no delay on Mother's train. We are riding through the line, through the day and night, riding through the rainbow and green eternity. Riding, riding across the Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E direi che abbiamo iniziato proprio bene ascoltando questo primo pezzo da Migratory Birds. Lei è Valeria Caputo e noi siamo molto fortunati in questa serata perché Valeria è con noi fino alle 22:30 proprio qui in studio con la sua chitarra per presentarci poi anche alcune sue canzoni sempre da questo album, però in versione acustica. Allora abbiamo The Next Train, quindi il prossimo treno, già quello che potrebbe essere l'inizio di un viaggio in mezzo a sensazioni, pensieri, avventure. Un treno che tu, Valeria, chiami in una maniera molto particolare, il treno mamma, mamma treno. Come mai questa allocuzione al treno? Finalmente qualcuno me lo chiede. Hai fatto? Va bene. No. Ok. Ho immaginato sì. Che il treno fosse come una grande madre e i passeggeri fossero, diciamo, che noi passeggeri insomma siamo tutti dentro il suo grande ventre. Cioè ho pensato che comunque quando sei in un treno ti affidi totalmente al tragitto, alla traiettoria, al percorso, all'attenzione dell'autista, a tutto quello che sono, un po' come quando sei nella vita e ti devi lasciare in un certo senso guidare dall'istinto, dagli incontri che fai, dai pensieri, dai problemi, insomma tutto quello che può succedere nella vita è così, è un po' un affidarsi, non sai bene come, quando, perché continui a viaggiare, è un viaggio, è un emblema, ecco, quindi questo ventre, questa madre treno. Questo è un treno assolutamente italiano e non americano, perché l'arrangiamento è molto americano, però c'è un risvolto su questo pezzo che adesso racconta la Valeria. Come è nato proprio in una stazione. Esatto, tornavo dal premio Janis Joplin. Capito, sì, Flavio? Non dal un premio qualsiasi. Dal premio Janis Joplin. Sì, sì, sì. Sì, chiaramente io non l'ho vinto. Non importa, hai però partecipato. Sono arrivata in finale, questo appunto. Comunque mi ha fatto molto piacere. A Savona presentava Ezio Guaitamacchi, sì, che è il direttore di Gem. Esatto, e quindi tornavo lì, ho fatto un cambio in Piemonte per tornare in Emilia Romagna e il solito ritardo del treno, però questa volta è stato utile, perlomeno per me, perché mi ha dato la possibilità di avere il momento, il momento così di ispirazione e scrivere questo. Vedi, Maurizio, pezzo. Che tutti si lamentano del treno che è sempre in ritardo. In realtà Valeria e anche altri artisti sono riusciti a prendere il lato positivo, e da questo ne è nata questa, questa canzone, questa melodia, questo Next Train. Io dico The Next Train Without Delay, quindi dico without delay, cioè senza ritardo. Senza ritardo. Perché la vita non può avere ritardi. La vita è molto puntuale. Certo, ma è molto americano The Next Train, assolutamente, perché i treni, il folk americano è la parte più importante del folk americano. Il treno è protagonista sempre. Sì. Certo, folk americano, ma non solo in questa serata, perché sviscereremo tutte quelle che sono le sfumature musicali di Valeria Caputo. Allora, come si ricordava bene in principio, Valeria è arrivata qui in compagnia della sua fedelissima chitarra, è una chitarra che ascolteremo nel brevissimo, oltre che alla sua cara amica Susanna, ne approfittiamo per salutare, magari poi faremo anche una domandina a lei legata sempre all'avventura musicale di Valeria Caputo. Allora, per tornare a bomba con quella che è la situazione acustica di questa sera, Valeria Caputo ci propone un pezzo dal suo Migratory Birds. In questo caso, cosa ci fai ascoltare, Valeria? Il brano si intitola The Face on the Screen, ovvero il volto sullo schermo. Bene, allora ce l'ascoltiamo. Non siamo dotati di schermo per essere visti, però ecco qua, il volto sullo schermo. Valeria Caputo a Blu Radio Veneto. Oh, Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. The Face on the Screen, Valeria Caputo ai microfoni di Blu Radio Veneto in questa canzone che poi troverete, carissimi ascoltatori, anche all'interno dei Migratory Birds. E subito in principio di trasmissione chiediamo a Valeria Caputo come fa l'ascoltatore che adesso ti sta ascoltando, interessatissimo a quello che è il tuo disco, a entrarne in possesso di una copia. Allora, o tramite il mio sito, mi scrive e io glielo spedisco via mail. Quindi cioè, ricordiamo anche il sito. Mail. Il mio sito è www.valeriacaputo.com, la mail è info@valeriacaputo.com, molto semplice. Oppure c'è la possibilità di prenderlo sul negozio online, su rockit.it. E ho addirittura adesso, e questa è una novità assoluta che ancora non ho neanche pubblicato sulla mia pagina Facebook, e che tra una settimana circa sarà possibile acquistarlo su tutti diciamo i negozi online tipo iTunes, scaricare diciamo direttamente l'MP3 o ascoltarmi da Spotify. Uh-huh. Adesso esiste anche quello, sì. Esiste anche quello, sì. Quindi miriadi di possibilità per entrare in possesso, soprattutto in forma legale, del disco di Valeria Caputo. Ricordiamo sempre la forma legale, perché molti si sa che scaricano gratuitamente la musica, e la musica scaricata gratuitamente fa assolutamente male. Certamente, allora, soprattutto il musicista. Migratory Birds soprattutto. Una curiosità, Valeria. Questo lavoro è stato realizzato in quella formula che in inglese suona come crowdfunding, quindi questa ricerca di fondi fatta in una maniera assolutamente particolare, quindi un processo diciamo collaborativo oltre che di raccolta fondi. Come è partito il tuo processo, Valeria? E tutto il mio processo è partito tramite l'informazione via web, ovvero sono entrata in contatto con questa realtà, nel mio caso il sito si chiama Produzioni dal Basso, e mi sono trovata molto bene, ho pensato che comunque valesse la pena provarci, non avevo nulla da perdere, per cui ci ho provato e ci sono riuscita. Chiaramente quello che ho raccolto è andato in parte, diciamo è stata una parte di quello che io ho investito per la realizzazione del disco, ma è stata una parte molto importante, perché non solo mi ha dato qualche possibilità economica in più, ma mi ha dato comunque la possibilità di sentire il calore delle persone che hanno creduto in me, quindi hanno voluto in qualche modo farsi sentire, e questo è stato uno stimolo, una spinta, un impegno, una responsabilità che mi ha tenuto l'attenzione alta per la realizzazione di questo disco. Ci sono molti che affrontano questo percorso per sponsorizzare il disco, tu che magari hai parlato con i dirigenti di questa che si chiama Conduzione dal Basso. Si chiama Produzioni, Produzioni dal Basso. Basso, scusa. Beh, adesso diventano sempre di più i progetti che vengono prodotti dal basso, perché la formula tradizionale produttore, sì, o comunque della casa discografica che ti dà una cifra per partire, che crede in te, è quasi non esiste quasi più. Sì, non esiste. Per cui adesso è la gente comune, infatti diciamo io piuttosto che andare a rompere l'anima a tutte le etichette, che poi alla fine va a finire che sono loro che chiedono i soldi a te, non certo, viceversa, ho preferito provarmi diciamo tra le persone comuni, partendo chiaramente inizialmente si parte sempre dagli amici, però sono poi riuscita ad arrivare fino addirittura in Norvegia, io ne vado fiera di questa cosa, che 15 copie del mio disco sono arrivate in Norvegia. Bene. da Morten, questo signore che poi insomma mi segue tantissimo, è anche lui un appassionato di Joni Mitchell, quindi diciamo in un certo senso l'ho agganciato da lì, ma poi lui devo dire che è una persona che si è rivelata nel tempo un ascoltatore molto attento e molto profondo. Questo discorso che tu hai fatto, queste produzioni dal basso, in più allargata, l'ha fatto anche Claudio Rocchi recentemente con un disco, si è prodotto proprio attraverso le cosiddette iniziative degli ascoltatori. Come giustamente tu gli hai detto, l'ha fatto capire anche Claudio Rocchi, le case discografiche non esistono più, o meglio esistono, però esistono solo per le ristampe, per i grandi nomi, per ristampare i dischi di grandi nomi, ma non premono più, non hanno più l'idea di far emergere una persona. Più che idea parliamo di dischi, sempre di più. Non hanno più i soldi, non hanno più la volontà di farlo. Dischi economici, che invece col crowdfunding si può fare, assolutamente. Due brevi considerazioni riguardo al pezzo che abbiamo ascoltato, Face on the Screen, quindi il volto sullo schermo. Era un grido di dolore di una persona forse che si sentiva tradita e nello stesso tempo usurpata della propria libertà. Esatto, e più che altro è una canzone in un certo senso denuncia, è un po' probabilmente non è così esplicito nella canzone, però sì, è una canzone denuncia verso la spettacolarizzazione del dolore. E quindi diciamo, il mio personale intimo e discreto... urlo, se vogliamo, sì. Anche comunque sì, un urlo discreto che denuncia un po', sai, queste storie lacrimevoli che ci sono, che poi magari hanno anche tutte le fondamenta, cioè hanno tutte le ragioni per essere veramente delle situazioni difficilissime, ma poi chiaramente la sensibilizzazione è un conto, la spettacolarizzazione è un altro, certo, conto. Viviamo sempre di più di spettacolarizzazione. Bene, allora c'è un altro pezzo dal tuo CD, Valeria, che non vede l'ora di partire. In questo caso ce l'ascoltiamo. Allora, December Sun, Valeria Caputo ai microfoni di Blu Radio Veneto con Migratory Birds, che è il suo ultimo lavoro. Eccolo qua. Of my childhood Sundays, and I sense the fresh scent of my grandfather's soap. The look warms and give a light through the leafy branch of red trees and the cold beach. The tip of my of a life with a special light. The summer colors move me when the sun is in clear sky in the morning. When the world is busy and people are back again on the roads. Childhood Sundays, and I sense the fresh scent of my grandmother's skin. The lukewarm sun give a light through the leafy branch of her hair and the cold beach. My nose and my cheeks, and I felt happy again. Of a life with a special light. December colors move me when the sun is in clear sky in the morning. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Un grande e lungo pezzo da ascoltarsi tutto d'un fiato, questo di Valeria Caputo, Migratory Birds è il titolo del suo lavoro. In questo caso ci siamo ascoltati December Sun, che un po' rivedeva quella che era la vita di fanciulla di Valeria Caputo, densa sempre di emozioni e di ricordi che rivivono in questo momento, appunto, all'interno di December Sun, questo sole di dicembre, per l'appunto. Allora in questa lunga suite abbiamo ascoltato non solamente la voce di Valeria, ma anche molti strumenti musicali a far da cornice e poi da attivarsi in questa atmosfera un po', diciamo, eterea, dove ci sono gli strumenti che diciamo parlano anche tra di loro in un certo senso. Abbiamo per esempio il sassofono, poi la chitarra elettrica, qualcosa che devia un attimino da quella che è la classicità del folk per andare verso quello che è uno studio jazz, per portarsi anche, se Maurizio me lo permette, fino al progressive. Sì, sì, anche Valeria ha detto un'altra cosa, un altro aggettivo, un'altra colorazione. Dilla pure la colorazione con cui poi questo pezzo, la psichedelica, ecco, vedi, psichedelica, quel, sì, ecco, dovevo, diciamo, parlare a questo. Poi puoi citare giustamente i grandissimi musicisti che hanno partecipato a questa suite, che è una vera e propria suite. Certo, allora innanzitutto le donne, soprattutto sì. Le donne prima. Quindi Silvia Wachte, che è anche chitarrista elettrica. Che è la chitarrista elettrica. Io faccio voce e chitarra acustica. Mm. Lei si è proprio dilettata. Si è liberata da qualsiasi molto. Orpello, è andata via. Esatto. Noi le abbiamo detto tutti quasi un po' gilmuriana in questo brano. Eh sì, decisamente. Sì. Però lei è uscita fuori dallo studio e ha detto: ma io Gilmour quasi non l'ho mai ascoltato. Quindi io credo nell'autenticità dell'assolo che ha fatto, quindi ha il doppio merito. Poi al basso Marco Pizzolla, molto elegante. E alla batteria Vince Valicelli, che con la sua esperienza ha saputo rendere molto, anche troppo bene, anche più le mie idee. Sì, diciamo che Vince Valicelli ha suonato con gli Uno, con Danilo Lustici, poi ancora con Elio Danna. Ricordiamo, Elio Danna è degli Osanna, no? È ex Osanna, sì, tu hai parlato Osanna. Di prog. Sì, sì, assolutamente. Gli Uno erano assolutamente prog. Non poteva essere che lui il batterista ad accompagnarmi in questo disco. Certo. E poi Tiziano Raspadori al sassofono, che è stato anche in questo, cioè in questa particolare situazione di December Sun, ho detto: guarda, vai libero, perché io avevo così un po' in mente qualcosa di registico da fare, che era quello appunto di aprire le due tracce sul finale e fare dialogare il sassofono e la chitarra. E poi, vabbè, in questa traccia non c'è, però vale la pena comunque ringraziare e citare Marco Remondini al violoncello, che è presente in altre tracce del disco, come la title track Migratory Birds. Sì, che poi ascolteremo ancora altre tracce, abbiamo tempo fino alle 22:30, quindi abbiamo appena consumato mezz'ora, abbiamo ancora un'ora per stare insieme ad ascoltare ancora la musica di Valeria Caputo. Migratory Birds è il titolo del suo album, io dico sempre ultimo album, in realtà è il tuo album d'esordio, Valeria. Sì. Quindi una certa emozione c'è in più in questo. Molta, moltissima. È stata l'esperienza che mi ha finalmente fatto fiorire, che mi ha finalmente aiutato a prendere forza, consapevolezza. Ed è arrivata al momento giusto, come dicevo prima, la vita non ha ritardi, quindi ogni cosa c'ha il suo momento e sono molto contenta. Adesso sto già pensando al secondo. Qua hai liberato tutti i musicisti, questa è una suite che abbiamo sentito. Sì. Ma l'idea di liberare tutti i musicisti è nata prima, il pezzo com'è nato? Chitarra e voce, e poi si è liberato con questi assoli, con questo andamento fuori dalle altre tracce del disco. Allora la cosa è andata così, che la canzone è nata voce e chitarra. E però io avevo iniziato a fare quindi qualche provino in casa, e in modo da dare qualche linea di, insomma, qualche direzione ai musicisti. E questa parte finale esisteva, però io che diciamo suono la chitarra acustica, ma non sono una solista con la chitarra, ho iniziato a fare delle cose con la voce, quindi era tutta piena di cori, molto West Coastiana, molto Crosby, Stills, Nash & Young. Quindi invece poi dopo è diventata qualcos'altro in studio di registrazione, quando avevo anche a disposizione tutti questi musicisti, che per me era bellissimo, mi sentivo un direttore d'orchestra in un certo senso. Esatto, sì, proprio direttore d'orchestra. E poi naturalmente la dimensione è quella tua live tradizionale, non quella che ci fai ascoltare qui in studio. Come viene diciamo gestita questa musica, questa canzone? Questa canzone, con diciamo, quando è possibile, io cerco di, come per esempio durante la presentazione ufficiale, la prima di questo disco, io ho voluto tutti sul palco, tutto il gruppo. Purtroppo la situazione, non tutti i locali hanno tutto questo spazio innanzitutto, quindi quando è possibile ci siamo tutti, ma diciamo che la maggior parte delle volte, quando siamo con la band, lo fa Silvia là solo, e quindi noi siamo tutti là a guardare lei, a lasciarci trasportare da questa coda che comunque durante i live diventa la possibilità per darsi un po' più al sentimento musicale, armonico, espressivo. Tu hai ribadito un concetto che hai già detto in un'intervista, che ami particolarmente, più che il discorso solistico, il discorso con la band. Un discorso corale, mi interessa. Più che altro il concetto compositivo. E poi quando magari il localino è piccolo, vado in duo con Silvia in acustico, oppure, come capiterà in queste sere qui, mi sono trovata qualche situazione in cui esprimermi in Veneto, quindi sarò a Treviso e a Vicenza nei prossimi giorni. Ah, bene, poi dopo le citiamo alla fine le date. Sì, okay. Citiamo le date anche per i nostri amici che adesso ci stanno ascoltando. A proposito, oltre che le frequenze tradizionali, Blu Radio Veneto è ascoltabile anche tramite lo streaming audio, basta collegarsi all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it e cliccando all'interno della notizia riservata a Valeria Caputo e al suo arrivo di questa sera, c'è la possibilità di cliccare e ascoltare per l'appunto la diretta. Poi ricordiamo ancora un'altra cosa sempre agli ascoltatori, che questa trasmissione, nel caso ve la siate persa dall'inizio, è possibile recuperarla entrando all'interno dei nostri archivi sonori, naturalmente sempre tramite il nostro sito internet, e ascoltarvela. Naturalmente, per capire qual è la differenza tra quelli che sono i brani svolti questa sera da Valeria in versione acustica e quelli che sono presenti da disco su Migratory Birds, abbiamo già ricordato le coordinate per entrare in possesso del disco. Allora, abbiamo dato anche tempo a Valeria di sistemarsi con l'accordatura, e quindi ci ascoltiamo un altro pezzo live. Questa volta, Valeria, cosa ci fai ascoltare? Fly Away. Eccola qua, Blu Radio Veneto, Valeria Caputo, Fly Away da Migratory Birds. Fly. Away, questo è il pezzo che ci siamo ascoltati in versione acustica, ce l'ha cantato e suonato Valeria Caputo, qui presente all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, chiamata appunto Blu Time Live. Ancora buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Allora, questo Fly Away era un pezzo dedicato forse indirettamente a un uccellino che deve volare via dalla gabbia, ma c'è qualcosa di più nascosto in questo Fly Away, questo vola, vola via, vola lontano, esci dalla gabbia. Diciamo che la poesia di solito è di chi la legge. Sì. Quindi io voglio che chi ascolta si identifichi in quello che sta ascoltando. Chiaro che quando l'ho scritta avevo in mente qualcosa, e di solito nei live introduco questo brano dicendo che questo brano parla di liberazione, che può essere tradotta in tanti modi, può essere a varie chiavi di lettura, diciamo così. In realtà questo brano parla di un trapasso, quindi da un cambiamento di una condizione, da una condizione ad un'altra, che non è necessariamente qualcosa di pesante, di brutto da considerare, da pensare. Può essere a delle volte una liberazione. Quindi quasi forse un concetto blues della liberazione, se vogliamo pensarla così, sì, lo è. Anche musicalmente era una liberazione, visto che l'hai eseguita, l'hai cambiata, hai fatto un giro leggermente diverso da come si sente nel disco. Chiaramente è giusto perché sei dal vivo in acustico, però ti allontani leggermente dal momento, dal modo in cui l'hai interpretata nel disco. Tra l'altro, questo è il pezzo che io e Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, abbiamo scelto come pezzo portante dell'album, che è piaciuto moltissimo. Grazie. Un pezzo di una raffinatezza notevole, piaciuto anche alla Susanna, qui presente, mi pare. Sì, è il suo pezzo preferito, quanto ho capito. Bene, allora Valeria Caputo, abbiamo ricordato prima il sito www.valeriacaputo.com. All'interno di questo sito si possono anche trovare quelli che sono i testi delle canzoni, sia nella versione inglese sia appunto nella traduzione italiana. A volte è bello cantare in inglese, è bello anche sapere di cosa si parla, per cui poi, come giustamente dicevi tu, ognuno si fa una prosa di quella che è la poesia resa poi canzone. Un'altra cosa, Valeria, ti volevo chiedere, sì, relativamente alla copertina del tuo CD. Richiama molto quelle che sono, diciamo, le copertine che giravano nei vari 33 giri degli anni 60, degli anni 70, dove c'è questa foto un po' sbiadita con la luce del sole, dove ti vedi te in primo piano con i fiori a far da copertina, proprio quello classico stile 60-70, diciamo. Come mai? Un pochino l'ho voluto richiamare perché quella è la mia origine e questo si sente anche nella musica. E poi quello è uno scatto molto bello, quindi a questo punto cito la fotografa Lia Arwen, che è una ragazza che vive a Cesena ed è lo scatto più riuscito di un set fotografico che abbiamo fatto nell'Appennino Toscoro-Magnolo, dalle parti di Premilcuore, vicino al fiume, bellissimo. E quello è stato lo scatto, io ho deciso quindi che quello doveva essere lo scatto importante che doveva entrare nella copertina, che poi è stata curata da Scarecrow, che in realtà non è altro che il bassista che suona nel disco, quindi Marco Pizzolla. E quindi io ho voluto che ci fosse un ovale, un po' perché ho questa idea un po' romantica, barra decadente, che mi piace molto, forse mi appesantisce, ma questo, almeno per questo disco, volevo che questa cosa fosse così, poi magari il prossimo ribalterò la situazione, chi lo sa. E poi questo ovale che richiama un po' anche la copertina Brighter Later di Nick Drake, che tutti mi hanno, insomma, hanno notato che c'era questa assonanza, perché in qualche modo volevo omaggiare anche nel mio piccolo, insomma, questo genio, lui, sì. Quindi non solo musica americana ma musica inglese, chiaramente. Ma tu non ami, tu giustamente in un'intervista hai detto: io non amo, non mi riferisco solo alla West Coast, quindi la musica americana, il rock americano, musica inglese, anche il prog, la musica italiana, quindi abbastanza variopinto il discorso musicale da cui parti. Sì, certo, perché insomma non sono una faziosa. No. mi piace, insomma, ascoltare la musica che vale, e quindi quando arriva dall'Inghilterra ascolto, a me non interessa da dove arriva, a me chiaro che poi la storia, chi l'ha fatta, mi piace approfondire, però se arriva al mio cuore e se arriva, insomma, a incuriosirmi anche a livello cerebrale, mi interessa, certo. Dopo diventa l'oggetto anche dei miei studi, dei miei ascolti. Tua, sì, mamma, quindi... e tuo papà se ti va Battiato e Battisti. Sì, anche, ma anche Pink Floyd, i Beatles, che stavamo ascoltando Abbey Road in macchina. Hai fatto bene sentire Abbey Road, fa bene alla salute sempre in ogni caso. Per quello è il disco con il quale sono cresciuta, e come dicevo anche alla mia compagna di viaggio Susanna, che insomma ascolta, per me è stata sempre una sorpresa continua ascoltare tutti i dettagli che lentamente fin da bambina, poi crescendo anche l'interesse musicale, l'intelligenza si sviluppava, quindi diventava per me una scoperta. Poi studiandoci sopra ho scoperto che è stato usato il Moog dentro questo per la prima volta a livello commerciale, di disco commerciale, e quindi era una continua scoperta per me. Abbey Road è il disco. Bene. Benissimo, allora abbiamo parlato anche di altri, quindi abbiamo citato Nick Drake, poi ancora i Beatles, ritorniamo ad ascoltare invece qualcos'altro di Migratory Birds, questo album d'esordio di Valeria Caputo, con quella che è la traccia che chiude il lavoro di Valeria, si intitola It's Wrong. Under the ground I lay grainy tunes, after the names I pray and I curse. It's wrong, it's wrong. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Valeria Caputo, Migratory Birds, questo pezzo che ci siamo ascoltati, It's Wrong, in totale sono quasi 40 minuti di ottima musica, quelli proposti nel disco appunto di Valeria Caputo. Allora, questo It's Wrong, è sbagliato, parte tutto da un concetto: noi su questa terra siamo solo ospiti. Valeria, come mai? È un monito più che altro. Sì, è un monito, sì. A chi ascolta, a chi ha voglia di ascoltare. Probabilmente chi ha voglia di ascoltare lo sa già che siamo ospiti su questa terra, non siamo i proprietari. No, assolutamente sì. Cioè, e invece ci comportiamo come se fossimo i proprietari di questa terra. Quindi è un mio canto quasi un po' pacifista, un po' ecologista anche. Ecologista, ma anche pacifista, perché parlo di guerra, parlo di ingiustizia, parlo di bambini, di vittime, di innocenza, di tutto quello che diventa abusato da un uso sfrenato del potere, dell'egoismo e dell'ignoranza. Sì, poi tu dici una cosa molto forte anche all'interno di questo pezzo, dici l'unico potere è nelle tue mani. Sicuro. E quindi noi siamo in grado di contrastare il male se lo vogliamo. Certo, ognuno di noi è molto potente se lo vuole, e il problema è che molto spesso ci, diciamo, io non vorrei dire cose complottiste, però, però molto spesso si tende, l'insicurezza tende a far sì che di creare l'insicurezza negli altri, cioè insicurezza negli altri significa abbassare l'autostima e quindi il potere che gli altri hanno, quindi mano a mano ci dimentichiamo di quanto siamo veramente forti, di quanto ognuno di noi abbia in mano la potenza di poter cambiare le cose, partendo prima di tutto dalla propria vita, nel proprio piccolo. Non è Power to the People lennoniana, però insomma. C'è un qualcosina. Po' di Patti Smith. C'è un po' di Patti Smith che è praticamente... Io l'ho sempre pensato. Because the Night all'epoca poteva essere anche quello. Cioè, tu parli di Patti Smith, musicalmente era un pezzo rock, è nato come pezzo rock allora. Sì, sì, è nato come un pezzo rock anche più crudo. Poi durante gli arrangiamenti, il momento arrangiamento, questo devo dire che è stato il pezzo che ha messo un po' più in crisi tutti. Tutti i musicisti, chiaramente. Sì, ma anche me. Anche perché te. Io volevo che fosse in un certo modo. Poi ho visto che gli altri si guardavano per dire, ma siamo sicuri che lo vogliamo fare così? E in questo caso ho lasciato un po' fare ai musicisti. Benissimo. Bene, allora Valeria, abbiamo nominato Nick Drake prima, abbiamo nominato Joni Mitchell, abbiamo sentito che venendo qui ascoltavi i Beatles. Allora, dovendo ipotizzare un tuo viaggio da Forlì, cioè città dove vivi, per arrivare nella tua amatissima Puglia, quali sono i dischi che ti carichi in macchina e che sai che ti potrebbero fare buona compagnia e che sono anche quelli che sono i dischi che ti hanno, diciamo, formato in un certo senso musicalmente? Allora, sicuramente, vabbè, l'abbiamo già detto, Joni Mitchell, quello è per la sera tardi, quando sono molto stanca, tardi, che molto non riesco tardi. A tenere gli occhi aperti, Joni Mitchell mi tiene incollata alla realtà. E quindi questo l'abbiamo detto, e Gira, per esempio. E, Tim Buckley sicuramente, Hello Goodbye per esempio. Bellissimo. Nick Drake, Brighter Later. Come mai quello che non è il disco più famoso, tutti ma pensano anche... Big Moon. Ma a me piace molto Brighter Later, forse perché è legato a un periodo della mia vita. Devo dire che quel disco ha influito moltissimo, mi ha aiutato proprio tanto a rimanere incollata a me stessa, vicina a me stessa in quel momento che ero un pochino, ecco, depressa. Mi ha aiutato, nonostante Nick Drake non sia un depresso, è decisamente depresso. In realtà abbiamo fatto, insomma, ha agito invece aiutandomi con forza. È una bellissima personalità. Poi sicuramente Bob Dylan, sicuramente Crosby, Stills, Nash & Young, sicuramente anche il disco dei Blues Evil, che è il disco del gruppo rock del bassista che suona con te, con me, perché un po' di rock ogni tanto fa bene. Certo. A me piace molto il rock, e i Doors, Janis Joplin, i Who, insomma, veramente non basterebbe la macchina per tutti i dischi che mi porterei, ma anche qualcosa di progressive, anche Frank Zappa, io lo adoro, anche mi piace moltissimo. Zappiana sei praticamente. Mi piace molto il pensiero nella musica. Ho capito. Quindi, e Frank è uno che pensava molto quando suonava. Sì, mi piace molto pensare attraverso la musica, e lo stimolo, e poi mi piace poi anche un po' quelli distruttivi che arrivano e distruggono quello che hanno appena detto, perché è veramente interessante un discorso del genere. Beh, hai trovato quello che ha sempre fatto, distruggeva sempre tutto. Frank faceva una cosa, poi la cambiava totalmente. Era proprio un musicista, penso il massimo musicista dal punto di vista di costruzione mentale. Poi voglio dire, tra le persone invece, i ragazzi di adesso. I miei contemporanei, a me piacciono moltissimo Honey Bird and Birdies, che quest'anno sono stati anche sul palco del 1° maggio. E poi anche questa cantautrice, forse verrà qui se non ho ben capito, che si chiama Nicoletta Noè, che è una cantautrice di Lodi. Sai che non lo ricordo, adesso vediamo. Se adesso, vediamo se vediamo nei programmi. Comunque prossimi. Invitatela, guarda, sì. Ve la consiglio. Prendi io, nota, lei. Maurizio, tu che hai carta e penna, Nicoletta lo è, Liquido sì. Records. Sì. Prenderemo nota. Prendiamo nota. So che vengono gli EQ, però. Quello sì, vengono gli EQ. Gli EQ vengono il mercoledì 12 giugno, cioè fra un mese. È molto e informata. Poi, per esempio, c'è Giacomo Toni, che adesso ha fatto il nuovo disco, che mi piace molto. L'ho avuto il piacere di ascoltarlo ultimamente durante un bel evento. Sì. Che si chiama Primo Maggio d'Amore, e, per cui è uscita una bellissima compilation che si chiama O Battagliero, e diciamo una compilation per finanziare un progetto dell'IRST di Meldola. E l'IRST è praticamente un ospedale, un reparto che si occupa di oncologia, e in cui tutti gli artisti, tantissimi artisti tra cui Sacri Cuori, anche Hugo Race, e ho avuto il piacere anch'io di partecipare a questa cosa, hanno riproposto in una loro versione delle cover che erano in realtà gli ascolti di questo ragazzo che si chiamava purtroppo Davide Oriani, che appunto abbiamo voluto ricordare con questa compilation. Quindi io adesso faccio anche un po' di pubblicità, perché è possibile prenderla sul sito www.primomangiodamore.it. Bene, assolutamente, abbiamo sentito tanti nomi di gruppi, nomi di personaggi conosciuti o meno conosciuti, subito noi andremo a documentarci sulle altre citazioni. E diciamo che non ci siamo fermati in Puglia, siamo arrivati fino alla Grecia prendendo il traghetto con tutte le citazioni musicali che Valeria Caputo ha fatto. Allora adesso un altro pezzo live, Valeria. A questo punto cosa ascoltiamo? Parlavi di mare, parlavi di Grecia, parlavi di traghetto, prendiamo, vediamo cosa ci dice questo mare. Vedi che non era proprio citato a caso. Valeria Caputo, ai microfoni di Blue Radio Veneto, il suo ultimo lavoro si intitola Migratory Birds, eccola qui. The Sea Storm. Trees don't worry about time. Don't worry, it's no will melt. It will return. It will return to the sea. To the sea. To the sea. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. The Sea Has Told Me, questa canzone che siamo ascoltati in versione acustica all'interno degli studi di Blue Radio Veneto con Valeria Caputo alla sua chitarra per proporci appunto questa versione bellissima di Il Mare Mi Ha Detto, questa The Sea Has Told Me da Migratory Birds. Allora, tu che vieni dal mare, Valeria, resti comunque al mare perché Forlì è lì, vicino al mare. Sì, più o meno sì, diciamo che ha una non bella lontano, costa, sì. Non è lontanissimo dal mare, quindi in un certo senso i tuoi richiami sono sempre lì, e tramite questi richiami hai stilato questa canzone di un mare che ti investe, ti avvolge e non ti lascia mai solo, in un certo senso, una specie di vestito che hai addosso. Più che altro questo è un richiamo, è il richiamo del mare, delle persone che quando sono nate vicino al mare. Io sono di Taranto, quindi sono nata praticamente... Ne hai due di mari tu, da Taranto? Io ho due mari. E peraltro Taranto è una situazione che mi crea anche una certa ansia, cioè sono molto combattuta sul fatto di essere lontano dalla mia città proprio in questo momento, quando forse tante coscienze si stanno risvegliando. Il richiamo diventa sempre più forte. Ti dico questo, che questo brano l'ho scritto quando a Forlì, in pieno inverno, c'è stata 2 anni fa la nevicata potente che ha bloccato non solo l'Emilia Romagna ma anche altre regioni. E quindi pensavo alla mia città mentre stavo guardando la neve che cadeva. E in un certo senso ho pensato che la neve, sciogliendosi, sarebbe tornata al mare. E quindi questa cosa mi ha fatto sentire molto più vicina di quanto non lo fossi a questa dimensione liquida, e che poi il mare è la vita, e il mare è qualcosa che bisogna rispettare. Spero che la situazione di Taranto possa davvero trovare una soluzione che possa in un certo senso accontentare tutti e soprattutto rispettare la salute delle persone. Certo, difficili le trattative in cuore all'Ilva, ricordiamolo, però sì, stanno lavorando per... Sì, diciamo che le persone dal basso si stanno alzando il loro urlo di protesta, ma anche per dire: noi siamo qui, ci siamo, non, basta subire. È un urlo che abbiamo sentito anche noi del Veneto, lontani 900 e più chilometri da quella situazione, però naturalmente i media hanno dato, magari non solamente la cronaca, ci hanno aggiunto anche qualche commento positivo o negativo rispetto alla situazione, però noi da qui comprendiamo benissimo la situazione di Tarantini e approfittiamo per salutare tutta Taranto, se ci sta ascoltando qualcuno tramite streaming audio. Ciao, Taranto. Per ascoltare la loro amatissima Valeria Caputo. Allora, Migratory Birds continua con l'ascolto proprio di questa della canzone che dà il titolo al tuo lavoro, quindi abbiamo già dato prima un cappello riguardo al significato del titolo, e quindi ascoltiamocelo. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Proprio il titolo di questo pezzo e anche il titolo dell'album. Bravo, bravo. Ecco qua, adesso siamo in diretta, ragazzi. Sì, siamo in diretta. Stavamo parlando del nostro direttore artistico. Ah, è arrivato Alberto Prisco, ha messo un po' di, come dire, di confusione. Di pepe nello studio, benissimo. Già, giusto, mancava. Allora, dicevo, Migratory Birds, abbiamo ascoltato questo pezzo di Valeria Caputo volutamente da disco, perché era un po' complesso riproporlo in versione live, perché tutte queste atmosfere soffuse, un po' molto intime, ai confini della musica contemporanea, con questi strumenti lasciati lì a echeggiare, e quindi forse ad andare ognuno via per proprio conto, però nel trovare la stessa armonia. Quindi rappresentano loro, quelli che sono gli uccelli migratori in questo caso. Valeria. Sì, questo pezzo è stato un piccolo grande miracolo in un certo senso. Io avevo chiaramente questo pezzo, l'avevo registrato nella sua versione primordiale nel 2004, a casa, e quindi c'era tutta l'idea di come doveva essere il pezzo, anche pieno di cori peraltro, eccetera. Poi in realtà è stato decostruito e ricostruito in studio, in fase di praticamente di missaggio, quelle cose che succedono un po' quando hai anche fretta, perché comunque non puoi stare vita natural durante, a me piacerebbe, però in un certo senso avevo dei limiti temporali in cui poter stare, e non si spiegano queste cose, non si dicono i segreti dei dischi, secondo me sono no. tutti contenuti nella bellezza che poi il brano ti offre, però diciamo così è stata una collaborazione di tre menti diverse tra me, Marco Pizzola, il bassista, e Franco Naddei, il fonico. Il fonico ci ha messo molto però in questo pezzo, secondo me. Sì, lui è soprattutto Franco è una persona che in qualche modo diventa il George Martin della situazione. Sì, un po'. L'ha orchestrato, l'ha arrangiato, l'ha aumentato, l'ha impicciolito. Diciamo che è bravo a parare i vuoti degli altri. No? Riesce comunque, ha sempre un'idea geniale che arriva. Quindi chiude il cerchio del discorso. Chiude il cerchio. Che poi a questo punto, visto che sto nominando i fonici, nomino anche Davide Abruzzese, che è il fonico che mi ha seguito per quanto riguarda la parte vocale. Ah, benissimo. Benissimo, quindi abbiamo vissuto atmosfere sospese ed etere in questa canzone. Prima avevamo ascoltato del folk, un po' di blues, un framisto di jazz, e una serie di generi musicali tutti molto cari a Valeria Caputo e quindi inseriti anche all'interno del suo modo di fare musica, proprio con Migratory Birds. Un pezzo che dovevamo ascoltare prima di Migratory Birds, che però ascoltiamo adesso, visto che abbiamo ancora 12 minuti per stare insieme in compagnia della musica di Valeria Caputo. Questa volta sempre da CD troviamo la traccia numero 8 che si intitola, Valeria? I'll Be With You. Eccola qua, ce l'ascoltiamo. Pain. I see you. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato anche questo pezzo da Migratory Birds, si intitola I'll Be With You, quindi sarò con te, e quindi è riferita anche la battuta a quello che è il disco di Valeria Caputo, Se lo vorrai sarò con te, e quindi comprami, come diceva Viola Valentino. No, quello io, diceva, io sono in vendita, però riferito in questo caso al CD. Al CD, allora, per entrare in possesso del CD, naturalmente è a disposizione il sito di Valeria Caputo, www.valeriacaputo.com, già la home page è pronta per quella che è diciamo la pubblicità del nuovo album. Poi naturalmente curiosando tra la home, le songwriter, la biografia, i vari contatti, altre cose presenti nel sito, si può farsi ancora un'idea maggiore di quella che abbiamo cercato nella nostra umile trasmissione di fare riguardo la musica di Valeria Caputo, per l'appunto. Valeria ha detto delle cose meravigliose su questo pezzo, a microfono spento. Adesso le diciamo a microfono aperto. Tanto hai citato un nostro mito che è Sandy Denny, e poi hai citato un altro nostro mito, mio, di Alberto, il tuo e Tim Buck. Velocemente adesso mi dai praticamente la ragione di questo pezzo, come è nata l'idea, dove è partita. Il duetto è del 2004, dici? 2004, sì. E questo pezzo è stato un mix di emozioni. Nel 2004, un mix di emozioni. Nel 2004, diciamo, ho incontrato la persona che con la quale ancora condivido tanto, anzi la metà di tutto quello, la mia metà, ecco, diciamo. Quindi I'll be with you significa sarò con te anche quando non riuscirai a vedermi, anche quando tu penserai che non sono con te, in realtà il mio amore rimarrà legato, ed è vero, è così, cioè è così nella storia, ormai siamo tanti anni insieme. E anche comunque è un sentimento poi espanso, allargato, in rivolto all'amore in generale, anche di altro tipo, un amore fraterno, un amore, un'amicizia, è legato soprattutto al sentimento della fedeltà. E niente, io in quel periodo stavo ascoltando Tim Buckley, anche se Sandy Denny forse riecheggia, risuona, in effetti è vero, perché mentre stavo decidendo gli arrangiamenti di questo brano stavo ascoltando The Sea di Sandy Denny con Fairport Convention. E quel pezzo mi ha veramente illuminato, anzi me lo sono riascoltato tantissime volte, mi fa veramente sognare quel brano. E quindi poi... Anche a noi. Sì, a noi. Fantastico. Fantastico. Lo consiglio a chi non lo conoscesse. The Sea di Sandy Denny. Da che album è, Maurizio? Questo non lo ricordo. Tu che sai tutto. No, sono vestiti come dei damerini. Quindi Fairport Convention non è Nine, vero? No, non è Nine. Sono vestiti come in abiti antichi. Allora, non è Fairport Convention, forse Farenghi sono praticamente... Praticamente è una... Costola. È una costola dei Fairport Convention. Lei ha fatto un solo disco con i Farenghi, poi è ritornata ai Fairport Convention. In ogni caso è un disco meraviglioso, che ama il folk inglese di grande valore, di alto valore. Sì, sono contenta che questo nome risuoni quando... Dopo l'ascolto di un mio brano mi rende solo orgogliosa. Bene. Benissimo, allora noi siamo altrettanto orgogliosi di averti ospitato, Valeria Caputo, perché ci hai fatto conoscere la tua musica, una musica che noi alla quale ci siamo affezionati, ci è piaciuta subito dal primo impatto. Grazie. E quindi fortissimamente anche Alberto Prisco, che ha curato la direzione artistica, ti ha voluto. Grazie. Ecco qua. E allora ti auguriamo un buon rientro nella tua Forlì. Ma ci sono due date, sì, ancora. Ah, due date? Giusto, giusto, sì, giusto. Ricordiamole le date. Quella del 9 al Maximum Festival a, sì, Treviso. E poi sarò il 10 al Nakota di Vicenza. Ah, benissimo. Bene. Quindi il 9 e il 10, appuntamento a Treviso e a Vicenza. Per chi vuole avere maggiori informazioni, rimandiamo sempre al sito internet di Valeria Caputo. Sì. Allora, ci lasci con un'ultima canzone, Valeria. Vuoi presentarcela prima dei saluti? Honey Maroon, sì, Miele della mia stanza. Di cosa parla? Questo pezzo duro che parla della depressione. Bene, allora. Però c'è... è un modo per esorcizzarla, diciamo. Ho avuto un momento anch'io che, insomma, come tutti, in cui ci sentiamo un po' incollati, un po' apatici, un po' privi di energie di voler reagire. Però in realtà sono momenti molto importanti che ci servono per crescere. Allora, quindi... benissimo, noi lasciamo i microfoni aperti ancora per Valeria Caputo, questo ultimo pezzo. Grazie Valeria di essere stata con noi. Come avrai capito, noi adesso salutiamo, quindi ti lasciamo i microfoni, sì, aperti. E allora, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, è davvero tutto. Microfoni aperti a Valeria Caputo. Il suo ultimo lavoro, lo ricordo ancora una volta, si intitola Migratory Birds, e questa è Honey in My Room. Valeria Caputo, grazie Valeria. Grazie a voi. Blue time. Blue time. Blue time.